e mi ritrovo solo a fissare il vuoto in una stanza fredda che sa di ignoto. Non so spiegare perché non era mio intento in un attimo gettare tutto al vento. Ho giocato le mie carte e ho fallito, quel sentimento ormai è seppellito. Sono passati giorni, mesi, anni e non ho fatto altro che danni. Quasi mi hai scordato, ok ti ho abbandonata, ma ho sbagliato e a caro prezzo l'ho pagata. Adesso non mi resta altro che fissarti dall'alto, cercando di non sfiorarti. Non piangere per me che me ne sono andato, so che ti sconforta pensare a ciò che è stato. In fondo è stato un'ora, poi tutto è passato. So che ciò che hai detto non l'hai mai pensato. Non saranno due minuti a cancellare ciò che hai dato. Non è colpa tua se quella sera ho sbandato. Smettila di piangere, la colpa non è tua. Se alla fine ho imboccato una strada buia, adesso sei in silenzio nel buio della stanza ed il mio ricordo nella mente danza. Ma ormai è troppo tardi, non posso più tornare. Ormai è troppo tardi per poter rimediare. Da tempo ormai per me sei sparita, distante anni luce dalla mia vita, dal mio modo forse assurdo di pensare, dal mio modo forse pazzo di amare, magari antico, vecchio superato, ma che Romeo e Giulietta ci hanno invidiato. Non volevamo, tutto era sublime, ma il nostro di romanzo è giunto alla fine. Forse mi pensi ancora quando sei da sola, torni ai bei momenti ora dopo ora, guardando quella foto ormai sbiadita dove le tue lacrime l'hanno ferita. Non piangere per me che me ne sono andato, so che ti sconforta pensare a ciò che è stato. In fondo è stato un'ora, poi tutto è passato. So che ciò che hai detto non l'hai mai pensato. Non saranno due minuti a cancellare ciò che hai dato. Non è colpa tua se quella sera ho sbandato. Smettila di piangere, la colpa non è tua. Se alla fine ho imboccato una strada buia, adesso sei in silenzio nel buio della stanza ed il mio ricordo nella mente danza. Ma ormai è troppo tardi, non posso più tornare. Ormai è troppo tardi per poter rimediare. Da quel giorno maledetto piangi senza sosta, ti chiedi il motivo ignorando la risposta. Non hai nessuna colpa, te lo posso garantire, ma era così che doveva finire. Adesso mi trovo in un posto tranquillo, non sento più il dolore, no, nessuno strillo. L'impatto è stato forte, dopo nessun rumore, soltanto quello del corpo che muore. L'ultimo respiro e l'ultimo pensiero sono stati per te, perché ho amato davvero. Quando ti manco, guarda verso il cielo, incrocerai il mio sguardo e sarà tutto meno nero. Non piangere per me che me ne sono andato, so che ti sconforta pensare a ciò che è stato. In fondo è stato un'ora, poi tutto è passato. So che ciò che hai detto non l'hai mai pensato. Non saranno due minuti a cancellare ciò che hai dato. Non è colpa tua se quella sera ho sbandato. Smettila di piangere, la colpa non è tua. Se alla fine ho imboccato una strada buia, adesso sei in silenzio nel buio della stanza ed il mio ricordo nella mente danza. Ma ormai è troppo tardi, non posso più tornare. Ormai è troppo tardi per poter rimediare.